Il libro di Sergio, di cui parleremo stasera, e che si intitola Alcune note sulla questione dei ceti medi e dell'estremismo di destra in Italia dal dopoguerra a oggi, consente diverse entrate, ci sono diverse porte da cui si può accedere ai contenuti di questo libro. E stasera, sulla base del tempo e delle disponibilità e degli interessi, ne apriremo almeno alcune. La prima potrebbe essere proprio quella posta nel titolo come questione dei ceti medi, che rimanda a un concetto della sociologia tedesca che non è precisamente traducibile in italiano, ma che attiene a quel mezzo nella società che, secondo la sociologia anglo-americana tradizionale, dovrebbe costituire l'elemento di stabilizzazione del sistema politico-democratico, ma che invece, a partire dalle ricerche della scuola di Francoforte nell'emigrazione negli Stati Uniti e successivamente, è stata assunta come elemento problematico della crisi della stabilità, nel senso che vi è stato indagato il processo di formazione, di sedimentazione, di stratificazione, di espressione dei comportamenti autoritari che poi saranno una delle basi del fenomeno dell'autoritarismo politico. Ecco, questo approccio di ricerca che, come spiega Sergio, attualmente viene portato avanti innanzitutto presso l'Università di Lipsia, viene esplicitato nella presentazione di questo lavoro ha un pubblico spagnolo, perché questo lavoro restituisce il testo di un contributo a un convegno organizzato in Spagna e a partire da quel concetto viene fatto un po' la storia della ricezione, della presentazione e della ricezione dei contributi francofortesi in Italia a partire dall'inizio degli anni 60, dalla prima edizione di Minimo Braglia curata da Renato Solvi, e questo intrecciato con elementi della biografia politico-intellettuale di Sergio. Quindi, se ti va, chiederei di partire proprio da questa questione del mezzo nelle sue ricadute sociopolitiche e in quello che si è tirato dietro riguardo il fare ricerca sociale, perché tu ricordi appunto gli studi sulla personalità autoritaria del gruppo di lavoro coordinato da Adorno, ma non fu questo l'unico contributo significativo di questo gruppo di ricercatori. Prima c'era stata la ricerca di Fromm sui disoccupati in Germania inizio degli anni 30, poi c'erano stati gli studi sull'autorità e la famiglia curati da Horkheimer, che erano anch'essi stati pubblicati in Italia dalla UTET, e a me è venuto di pensare che questo filone così ricco di ricerca in quegli anni, sia negli anni tedeschi che poi nell'immigrazione, era accompagnato da altre esperienze, anch'esse molto significative, di psicosociologia. La più nota sicuramente è quella che fa capo a Wilhelm Reich, la psicologia di massa del fascismo, gli studi sulla rivoluzione sessuale, eccetera. Ma Reich non fu l'unico in Germania in quegli anni. C'era stato Pfeffert, che sia al fronte nella guerra sia in carcere aveva studiato molto a fondo la miseria sessuale dell'uomo combattente, dell'uomo recluso. C'era stato tutto quel filone che apre gli studi di genere, con almeno una cinquantina di anni in anticipo in Germania rispetto al resto del mondo occidentale, per non parlare poi degli studi di pedagogia sociale, l'esperienza degli asili autogestiti, insomma quel tessuto di ricerca-azione molto, molto forte, molto radicato nelle situazioni di lotta e di movimento di quegli anni. Allora, ecco, questo ti chiederei magari di presentarlo un po' più puntualmente di come ho accennato io, e però comprendendo anche la parte che hai avuto tu, cioè come è arrivata a te, a voi, questa vicenda di ricerca, di un nesso cercato tra pensiero, ricerca e azione. Innanzitutto vi saluto, vi ringrazio che avete fatto lo sforzo di venire qua in questa giornata. Il discorso è molto complesso, nel senso che chiaramente durante la Repubblica di Weimar in Germania si è sviluppata una sociologia di altissimo livello che non ha paragone in Italia, insomma. E questa sociologia poi ha continuato a lavorare, a intensificarsi, eccetera, quando in gran parte è finita nell'emigrazione, perché diciamo il primo compito, quella che si era prefisso appunto durante il periodo weimariano, era quello di capire appunto un po' lo spappolamento del cosiddetto Mittelstand, no? Della Mittelschicht, cioè la crisi della borghesia, ma era anche la crisi del proletariato, cioè quello che succede durante la Repubblica di Weimar, quando c'è la grande inflazione, quando c'è la crisi economica, eccetera, è uno spappolamento delle classi, che è stato uno degli elementi determinanti che ha consentito poi al nazionalsocialismo di vincere. Quindi la sociologia ha cercato in quegli anni di riuscire a seguire e analizzare questo spappolamento del concetto di classe. Quando poi questi sociologi sono scappati tutti più o meno all'estero, chi soprattutto negli Stati Uniti, chi in Inghilterra, chi per esempio uno come Geiger, per esempio, quello che ha indagato per primo il lavoro autonomo, finito in Danimarca, eccetera, è stata una cosa che ha ulteriormente approfondito, diciamo, i parametri e le metodologie della ricerca. Quindi sicuramente abbiamo un livello, come dire, di analisi scientifica sulle composizioni di classe, eccetera, sugli atteggiamenti, sulla psicosociologia, su tutte le tematiche che tu hai creato, estremamente approfondita, che non ha paragone con l'Italia, insomma. Io mi sono trovato appunto quasi per caso in questo seminario a Madrid, dove era arrivato questo gruppo di Lipsia che un po' sostiene di essere i continuatori di, diciamo, del pensiero adorniano, ed è un gruppo che naturalmente è un gruppo legato al Partito Social Democratico, finanziato credo dalla Friedrich Ebert Stiftung e così via. Loro presentano ogni due anni un rapporto proprio sulla mentalità di estrema destra, no? Che devo dirvi non è che mi convince moltissimo. E lo stesso loro richiamo esplicito alla personalità autoritaria, cioè allo scritto, dalla questa grossa ricerca che ha fatto Adorno con i suoi allievi, no, non è che mi convince molto. Loro tra l'altro hanno un atteggiamento che io non condivido per niente, per esempio loro erano molto favorevoli alla messa fuori legge dell'estrema destra, dell'Alternative für Deutschland, no? Cioè, mettere fuori legge un partito che si becca il 30% dei voti, cioè, vuol dire proprio rinunciare a una battaglia politica, no? Pensare che con una legge risolvi un problema che sono nati, sappiamo come tra l'altro sono nati, loro su quello non indagano minimamente, sono nati dal modo in cui la Germania occidentale ha praticamente fatto una specie di Anschluss quando è caduto il muro di Berlino e ha considerato la Germania orientale un paese popolato da esseri che dovevano essere rieducati alla democrazia, no? E quindi ha avuto un atteggiamento, come dire, repressivo, oppressivo. Io l'ho vissuto in prima persona, perché proprio mi ricordo nel 1992 sono andato nella ex Germania Est e ho incontrato dei professori universitari marxisti della ex DDR che erano stati cacciati semplicemente dalle loro cattedre. Li erano buttati fuori dicendo: ah, voi non eravate degli scienziati, voi eravate della gente che ripeteva come dei pappagalli il materialismo dialettico, e quindi li hanno cacciati tutti, no? E ha messo al loro posto dei professori universitari. Questo ha creato non soltanto nell'università, ma in generale in tutta la, pensate alla chiusura delle fabbriche di Stato, no? Cioè, mi ricordo quando sono andato all'Ipsa nel 92, era come andare nel Bronx a New York, cioè c'era una disoccupazione mostruosa, c'era una situazione pazzesca, cioè, tu vedevi questa gente così disoccupata, sola, che beveva una birra al mattino perché si vergognava di dire alla moglie che non aveva andato a lavorare, cioè era una situazione pazzesca. E questa era tutta dovuta al modo in cui così la Germania Ovest ha messo praticamente sotto inchiesta, no? Hanno costituito delle fondazioni, tutta la popolazione, come dire, che doveva essere, della Germania dell'Est, che doveva essere rieducata alla democrazia, no? Di questo aspetto qua, per esempio, questi studiosi di Lippmann non se ne occupano minimamente, che invece secondo me è determinante per capire appunto perché lì è nata in quel modo Alternative für Deutschland. Tra l'altro qui serve ad aprire anche un discorso molto complesso su oggi, sulla Linke, sulla Sarah Wagenknecht, ma insomma un discorso che non apro. Comunque, diciamo, tutto questo apparato scientifico della sociologia tedesca non ha trovato un riscontro in Italia. Quindi quando noi affrontiamo il problema dei ceti medi, quando viene affrontato il problema dei ceti medi negli anni 70 con quel celebre libro di Silo Slabini, come dire, gli strumenti metodologici sono anche di una grande povertà, insomma, no? Tra l'altro è un'impostazione, quella di Silo Slabini, assolutamente conservatrice e reazionaria. Pensate i giudizi che lui dà sul movimento studentesco, no? I disperati. Cioè, sono i tuoi studenti, cazzo, li chiamano i disperati, vuol dire che proprio non hai capito niente, no? Lui tra l'altro era uno che proprio personalmente ce l'aveva con me, insomma. Quindi ho vissuto anche quel periodo lì proprio con purtroppo con grande disprezzo verso questi grandi accademici italiani, no? Quindi abbiamo una strumentazione concettuale estremamente fragile, no? Che però si va avanti lo stesso e faceva comodo dopo tutto proprio alla politica del PC, perché il problema dei ceti medi nasce dal momento in cui il PC dice: il nostro problema non è tanto con la classe operaia, il nostro problema è con i ceti medi, quindi noi dobbiamo concentrare la nostra attenzione per attirare, inglobare i ceti medi, in quanto la classe operaia ce l'abbiamo già. Quando abbiamo fatto i quaderni rossi, il problema era questo, a dire a questi del PC: ma guardate che proprio non avete convinto un tubo, perché proprio voi non avete più quel tipo di classe operaia che è cambiata, cioè non vi siete accorti che c'è una nuova classe operaia venuta dal sud, l'operaio di massa, tutto il discorso. Quindi quando voi date per scontato che comunque rappresentate la classe operaia, è lì che vi sbagliate. Cioè, dopodiché volete conquistare i ceti medi, benissimo, quello che vi sbagliate è lì. E poi si è dimostrato che questo è funzionato, cioè l'autunno caldo è nato, come dire, su un'impostazione completamente diversa. Cioè, voi pensate soltanto che poco prima che parta l'autunno caldo c'era ancora una forte discussione tra la FIOM e la FIM sul problema degli allevamenti uguali per tutti. Cioè rischiavano di partire per la lotta contrattuale del 69 su posizioni divise sugli aumenti uguali per tutti, no? Poi l'ha spuntata la CISL, l'ha spuntata la FIM di Carniti, la FIM di Antoniazzi, eccetera, ma Trentin non era d'accordo. Io ho intervistato Cervetti una volta per un'altra ricerca, cioè un dirigente importante del Partito Comunista Italiano, milanese, il quale mi è venuto a dire, guarda, le cose andavano bene, eccetera, eccetera, dopodiché c'è stato l'aumento uguali per tutti, è finito tutto. Cioè, considerava quello un tragico errore perché non riconosceva il merito, no? Quindi significava non aver capito nulla della mentalità, diciamo, di questi nuovi operai che erano venuti dal sud, no? Quelli che Balestrini ha magistralmente raccontato in Vogliamo tutto, poi di fatto, no? Quindi quando parte, diciamo, l'analisi di Silvio Slabini, parte su queste premesse che sono completamente distorte. Quindi lui assolutamente nemmeno recupera questa lezione dell'autunno caldo, non la recupera. Dopodiché le cose vanno avanti, diciamo, finiscono gli anni 70 con la sconfitta operaia alla Fiat e inizia una nuova fase, diciamo, anche della percezione del ceto medio, no? Perché cosa dice Silvio Slabini? Silvio Slabini dice in gran parte questo ceto medio è un ceto medio parassitario, no? Cioè non è un ceto medio progressivo, non è una borghesia progressiva, è una borghesia in gran parte parassitaria. Non solo, ma lui aggiunge, parassitaria è anche quella classe operaia che vive per esempio di cassa integrazione, no? Quindi lui ha questa immagine del tutto astratta di una borghesia, come dire, che poteva essere stata descritta da Marx, la borghesia, diciamo, della rivoluzione industriale, e che invece considera inesistente e la sostituisce con questa immagine della burocrazia fatta di gente che vive di sussidi pubblici, di, appunto, di impiegati pubblici e così via, eccetera. Quindi Letta oggi, quel famoso libro sui ceti medi di Silvio Slabini, è veramente, come dire, non regge minimamente in piedi. Quando nasce negli anni Ottanta il problema dei distretti industriali, è lì che si forma tutto un nuovo concetto sulla borghesia, perché quella è una strana borghesia, sicuramente è una borghesia innovativa, ma inoltre ha quest'altra caratteristica che è fatta molto da ex operai. Vi ricordate come erano fatti i distretti industriali, no? In buona parte, le aziende davano i lisi, le macchine utensili all'ex dipendente, questo se lo metteva nella cantina di casa, nel Veneto, in Emilia Romagna, alle Merche, eccetera, lavorava come terzista, capito? E da qui sono nati anche dei grandi colossi, insomma, Benetton vuol dire cresciuto in questo modo, eccetera, no? Quindi aveva un'idea di una borghesia completamente diversa da una borghesia parassitaria, tant'è che il PC entusiasticamente appoggiò il modello distrettuale e gli economisti distrettualisti diventarono gli economisti progressisti per eccellenza. Non so, ricordo il mio amico Alberto Magnaghi, ha lavorato moltissimo con gli economisti distrettualisti. La fine che hanno fatto i distretti industriali, poi l'abbiamo visti, no? Perché tutto questo grande progresso, questa grande borghesia progressista ha prodotto la Lega. Ce ne prodotto, diciamo, alcune delle componenti più razziste, insomma, del panorama politico italiano. Quindi questa vicenda qua della percezione del ceto medio è molto interessante seguirla, perché ce la ritroviamo sostanzialmente come una componente fondamentale anche dell'oggi. Quindi questo è stato un po' il percorso che ho fatto. L'ultimo, diciamo, tessello è quando, diciamo, la mitologia distrettualista, diciamo, è entrata in crisi, è venuta a mancare ed è entrata, diciamo, come definizione del ceto medio quella data da Bagnasco e dalla scuola di Torino, il quale diceva una cosa molto chiara, dice guardate che il ceto medio è un costrutto, cioè il ceto medio viene costruito dalle politiche di regolazione. Quindi quando noi studiamo le politiche di regolazione riusciamo a definire il ceto medio. Quindi è inutile che noi andiamo a riprendere i vecchi metodologia weimariana di analisi della classe. dobbiamo studiare i sistemi di regolazione, perché i sistemi di regolazione sono quelli che definiscono la ripartizione del reddito, e definendo la ripartizione del reddito possono più o meno incominciare a compartimentare, no, i vari strati della borghesia. E devo dire, è un discorso, questo sì, che mi ha sempre molto, molto, molto convinto. Quindi, diciamo, io ho cercato, di dare le tappe, di come in Italia, dal periodo del dopoguerra in poi, come dire, è stato percepito, e analizzato e definito il ceto medio. E all'interno di questo, poi ci ho messo una piccola parentesi, comunque interessante, come è stato recepito Adorno in Italia. Perché è stata molto interessante questa cosa qua. Perché quando Solmi traduce il primo libro di Adorno, Minima Moralia, praticamente non se ne accorge nessuno, se vogliamo, no? E soltanto quando traducono la dialettica del comunismo, eccetera, eccetera, che tu hai, come dire, una percezione di cos'è la scuola di Francoforte, che non viene affatto accolta con molto, come dire, entusiasmo. Per esempio, io ho fatto l'esempio della scuola di Enzo Paci, no? La scuola dei fenomenologi, quasi ignora quel libro, no? Quindi lo stesso, i Quaderni Piacentini, che sono i primi che fanno una recensione approfondita di Adorno, lo criticano aspramente, no? Quindi anche questo è interessante vedere come questo, il pensiero di questo personaggio è stato recepito. Mi ricordo che quando ho incominciato a fare traduttore, subito dopo la laurea, mi hanno dato una volta, a un certo punto, un testo di Adorno da tradurre. Io gli ho scritto e lui mi ha risposto gentilissimo. Quindi comunque era una persona che aveva un fascino, tra l'altro anche didattico, enorme. Insomma, mi ricordo quando sono andato a Francoforte e lì ho conosciuto l'Angela Davis, che era sua allieva. Alle lezioni d'Adorno c'erano 600 persone. Cioè, veramente è stato un maestro, insomma, per tante. E anche nel 68 tedesco, dove il suo grande allievo Jürgen Krall è stato uno dei leader, del 68 tedesco, comunque Adorno era l'interlocutore privilegiato, insomma, è un uomo che ha avuto un ruolo, insomma, importantissimo, insomma, anche nella parte migliore, della cultura tedesca. Ecco, leggendo la parte sui distretti, a me è tornato in mente la lettura che feci parecchio tempo addietro del numero unico del Potere Operaio Veneto Emiliano, dove si descrive un processo analogo sviluppatosi dopo la congiuntura del 64. Proprio lo stesso fenomeno di espulsione di una parte degli operai che vengono professionalizzati, diventano un pezzo del circolo. Mi ha colpito perché di questo fenomeno che riguardò sostanzialmente il Triveneto non è rimasta quasi traccia nella memoria, perché poi tutto fu strabordato dall'ondata operaia, dalle lotte del biennio successivo. Quindi mi è venuto di pensare che tutte le questioni relative all'analisi di classe, dei ceti, eccetera, che chiaramente hanno un fondamento sociologico, di ricerca empirica indispensabile, però alla fine sono sempre questioni di lettura e di fenomeni politici. Infatti la debolezza principale del libro di Silo Slabini, secondo me, sta nel fatto che lasciamo stare certe questioni metodologiche sulle basi di dati, ma lui sostanzialmente fa una fotografia e poi dice la sua opinione su sti ceti medi, prescindendo da che cosa questi soggetti sociali stavano facendo proprio in quegli anni, perché se in termini sociometrici un tecnico ha più a che fare con la parte alta che con la parte bassa della forza lavoro industriale, però è quello che fa se va a casa a studiare la sera, oppure se organizza i comitati di base e articola la questione del lavoro tecnico in rapporto. E questo vale un po' per tutto l'insieme della questione. Cioè, dire classe per me vuol sempre dire, cioè è sempre un concetto politico. Cioè, classe è quello che quegli uomini che la condizione sociale, la storia ha portato a fare, a vivere in quella certa maniera, fanno organizzandosi o meno, con un'organizzazione politica o meno, con varie forme, però è sempre un concetto collettivo e politico. Quello che è avvenuto in Italia, come parte del resto del mondo, è questa dissoluzione della politicità e del carattere sociale collettivo dell'appartenenza. E questo è poi il fondamento di tutto quello che è cambiato, secondo me, nel sistema politico, nel sistema di riproduzione delle classi, eccetera. Questo è un po' il succo, a mio avviso, della questione. Dentro questo elemento politico sta ovviamente anche l'autopercezione che questi soggetti hanno di sé. E infatti uno dei passaggi fondamentali del tuo libro è in quella ricerca che riporti di Demos di Diamanti, che dimostra come l'autopercezione degli uomini, delle donne, dei lavoratori si stia a un certo punto in Italia proletarizzata, cioè la visione di sé come lavoratore piuttosto che come elemento del nuovo ceto medio, perché è questo che poi sposta eventualmente i termini del gioco. Allora, tu prima hai citato Potere Operaio Veneto Emiliano del 64. No, mi pare 67, mi pare, però non... Vabbè, quello è il genio di Guido Bianchini. Quello è il genio di Guido Bianchini. Guido Bianchini è stato nella storia dell'operaismo, cioè perché tutti dicono Alquati, i Negri, Tronti, eccetera. Guido Bianchini è stato un vero genio, perché lui allora aveva capito perfettamente. Una roba è l'operaio massa, quella che abbiamo, come abbiamo visto, a Torino, eccetera, viene dal sud, eccetera. Un'altra roba, dice, guardate che gli operai del petrolchimico di Marghera o gli operai appunto delle fabbriche chimiche di Ferrara, no? Lui veniva da Ferrara, non sono persone che hanno mollato, diciamo, la vita contadina. Sono operai e contadini, cioè loro conservano il pezzo di terra. E lui fa tutto un discorso come questo rapporto ancora con la terra diventa salario indiretto. E fa tutto un discorso sulla complessità delle politiche di welfare su questa cosa. È una delle robe più interessanti che gli stessi operaisti proprio non hanno mai sfruttato. Però questa cosa qua è molto diversa dai distretti. Cioè l'operaio del distretto a cui danno in leasing la macchina, quello è un'altra cosa. Nel senso che lui è vero che ha anticipato moltissimo la tematica della frammentazione, dell'outsourcing, dell'esternalizzazione. Quindi lui l'aveva capito 15 anni prima. Però la sua, come dire, definizione di quel tipo di operaio era una figura ibrida. Cioè lui ha capito, no? Cioè, guardate che una cosa è l'operaio massa, che ha quelle caratteristiche. Una cosa è l'operaio tradizionale, va bene, quello delle commissioni interne del 46, eccetera. E una cosa sono queste, come dire, figure ibride, no? Che vengono mantenute attraverso un sistema estremamente complesso entro il quale le politiche territoriali, le politiche di welfare, le politiche i sussidi sulle famiglie, eccetera, fa tutta un'analisi di questo complesso sistema proprio tutto democristiano, no? di sussidi alla famiglia. È una delle cose più interessanti che l'operaismo ha fatto. No, no, non intendevo che fosse la stessa cosa, però mi aveva colpito questi elementi di similianza. Di una grande intelligenza, insomma. Comunque, appunto, questo discorso sul ceto medio è una parte del libro, insomma. L'altra parte del libro è un po' si interroga un po' sull'estrema destra, insomma, su questa estrema destra europea. E la mia posizione è una posizione, guardate, di che a me non mi preoccupo dell'estrema destra, come dire. Cioè, secondo me ci sono dei fattori molto più gravi, no? Molto più drammatici all'interno della politica e della società italiana. Ma prima di tutto è molto più grave, diciamo, la qualità del padronato italiano. Cioè, noi abbiamo un padronato italiano che, voglio dire, se noi abbiamo dei salari che sono in diminuzione per anni, invece che questo lo dobbiamo alla Meloni, ma l'altro lo dobbiamo a Confindustria. Cioè, se noi abbiamo la precarizzazione estrema, a chi lo dobbiamo? Dobbiamo mica a Lollobrigida, ce l'abbiamo a Confindustria. Cioè, guardate cosa sta succedendo col contratto dei metalmeccanici, è un anno che stanno discutendo, abbiamo i padronati più infami che ci siano. Cioè, quando Mediobanca, va bene, 2 anni fa, ha fatto l'analisi delle principali industrie italiane e ha fatto gli studi che la Mediobanca fa ogni anno su 1900, diciamo, migliori imprese italiane, che sono comprese tutte quelle che hanno più di 500 dipendenti, no? Il meglio, la crema, e ha detto: vediamo i profitti che hanno fatto questi signori. Hanno fatto dei profitti altissimi. Dopodiché c'è stato un gruppo di ricerca dell'Università La Sapienza di Roma che ha detto: bene, andiamo a vedere come li hanno distribuiti questi profitti. Oh, l'80% sono andati agli azionisti. Sono stati reinvestiti il 20%. Cioè, capite cosa significa questo? Che è dovuto alla presenza dei fondi, non lo so, eccetera. Cioè, significa appunto che abbiamo una classe dirigente che si mangia totalmente, come dire, il capitale che dovrebbe essere minimamente reinvestito per far venire le imprese. Cioè, stanno facendo morire le imprese, o perché vanno all'estero, o perché poi le vendono. E d'altro canto, se voi mettete in fila le crisi aziendali soltanto in Lombardia, guardate che abbiamo un numero di crisi aziendali incredibile. Quindi abbiamo una situazione, scusate, cazzo. Abbiamo una situazione proprio della qualità del padronato italiano, di classe imprenditoriale italiana, che credo che sia il problema più grave che abbiamo, molto più grave della Meloni, per me. Nei confronti dei quali, come dire, anche le politiche sindacali e così via, le politiche sicuramente del PD, eccetera, sono tali che con chi ce l'hanno questi qui? Cioè, ci sono componenti del Partito Democratico che sono molto più favorevoli a questa imprenditoria dell'estrema destra. Quindi questo è il dramma vero che noi stiamo vivendo. Cioè, di una qualità del capitalismo italiano che porta a far sì che la qualità del lavoro in Italia sia intollerabile. Cioè, è un paese che sta regalando, come dire, le sue migliori intelligenze, tra 500.000 di gente laureata che va all'estero, diciamo niente. C'è un paese che si suicida e nessuno dice niente. Cioè, capito? Quindi da qui il problema dell'università, il problema della scuola, il problema della formazione, così via, eccetera. E veramente questo, secondo me, è un problema molto più grosso. Per questo io dico: non esiste antifascismo senza anticapitalismo. Cosa volete fare politiche contro la Meloni e non vi rendete conto che non siamo capaci di fare delle politiche adeguate di resistenza e di opposizione a quella qualità capitalistica che ci troviamo, che è veramente infame. L'altro discorso che io volevo fare è su un piccolo particolare, cioè che questo paese vive sulla semischiavitù, sulla schiavitù. Perché io ritengo che anche tra di noi ancora non è chiaro che cazzo vuol dire schiavitù. Perché molti pensano ancora alle piantagioni di cotone e alla guerra di secessione. Mentre la schiavitù, ce l'hanno insegnato gli economisti americani, è un modello economico. È un modello economico per il quale all'interno di certi settori dove la forza lavoro è in buona parte costituita da persone in situazioni di semischiavitù, come per esempio parte dell'agricoltura e parte della logistica, all'interno di quella situazione si costruisce, si costituisce una struttura dei costi che a farla saltare, ma ci vuole la rivoluzione. Ma provate a immaginare se i ragazzi che raccolgono i pomodori in un campo qualsiasi, va bene, invece di essere pagati quanto? 5 euro all'ora, venissero pagati 9 euro all'ora, va bene? Minimo salariale. Pomodoro quanto costerebbe? E la pizza quanto costerebbe? Cioè, andando a mangiare la pizza dovresti pagarla 40 euro. Voi pensate una cosa del genere possibile? Quando questo uno dice, dico, ma vi accorgete cosa cazzo è sta schiavitù? È un modello economico che riesce a costruire una struttura dei costi all'interno di un settore che è difficilissimo farla saltare, perché sono costi, come dire, costi determinati dalla grande distribuzione e così via, eccetera. Tant'è che quelli, gli schiavisti, cioè quelli che assumono sti qua, ti dicono, io non posso fare altro. O faccio così, o come faccio se la grande distribuzione... Quindi c'è tutta una catena, quindi vedete che è un modello economico. Solo che dimentichiamo che questo si chiama schiavitù. Allora, io ho introdotto alcune di queste cose dicendo, guardate ragazzi, abbiamo delle priorità. Sarà anche importante le lotte per Gaza, ma abbiamo queste priorità che dobbiamo perseguire. Sarà anche importante il decreto sicurezza, ma a parte il fatto, voglio dire, che quando era ministra dell'interno la signora, come si chiamava, Lamorgese, la situazione non era molto migliore. No, chiedete agli studenti che allora facevano le manifestazioni, come gli ha rovinato la fedina penale per fare due scritte su, no? Quindi non ci ricordiamo che i governi di sinistra, i cosiddetti governi centro-sinistra in Italia, hanno avuto una politica repressiva che quella del decreto sicurezza non è che li fa molta vergogna. Cioè, ricordiamoci di queste cose. E quindi scegliamo una serie di priorità. Io lì ho scritto alla signora Meloni, è comunque una donna di buon senso. Preferisco che venga, sia lei al governo, che vada al governo, non so, una come si chiama quella del PD, la vicepresidente del Parlamento europeo, Pippina Picerna. Cazzo, sembra un dottor Stranamore quella lì. No? Cioè, piuttosto la Meloni, piuttosto che sta gente qua, per l'amor di Dio. La Lucia Annunziata, questa qua. Tutti quelli dei europarlamentari del PD che hanno votato sul riarmo, eccetera. È una banda di criminali, la strega, no? Quindi, mettiamoci, come dire, chiariamo alcune cose, perché sennò non usciamo un po' da questa situazione in cui, francamente, non si vede, insomma, la possibilità di, pur essendoci una fortissima disponibilità al conflitto. Perché anche questo, no? Molte volte parlando con il sindacato, beh, è difficile oggi far superare gli operai, ma non era un corno. Ci sono continue lotte. Il problema è che sono gran parte lotte difensive, no? Lotte perché chiudono un'azienda, eccetera. Però la disponibilità c'è, altrimenti non avresti, non so, i sindacati di base. Cioè, trovate una situazione in cui firmano un contratto nazionale delle ferrovie, il giorno dopo c'è uno sciopero delle ferrovie. Quasi totale, giorno dopo la firma del contratto. Quindi vuol dire c'è una situazione di disponibilità al conflitto alta. A questo punto devi dargli un quadro politico degno di questa possibilità o disponibilità alla lotta. No? Ecco, io dico un'ultima cosa, poi aprirei alla... alla discussione, le domande, quello che volete. Dentro quel processo di atomizzazione, polverizzazione del rapporto di lavoro e la seconda generazione di ceto medio, come piccola ma significativa esperienza sta quella di ACTA e REDACTA. Chiaramente è solo un piccolo esempio e non pretende minimamente di porsi come possibile risoluzione per la condizione complessiva, però appunto nel piccolissimo, nel microscopico, a mio avviso, se la questione, una delle questioni fondamentali è rimettersi in connessione, ritrovare quello che condivide con te, magari senza che tu lo conosca, la stessa situazione, le stesse problematiche, sia che ciò avvenga fisicamente, sia che ciò avvenga attraverso un supporto elettronico. La questione degli spazi di incontro, della presa di parole, della comunicazione per me è fondamentale. Lo si vede già durante le settimane di Occupy Wall Street. Il fatto più grosso, significativo e importante era che questi per la prima volta parlavano con qualcuno e avevano il tempo di scambiarsi delle esperienze e magari brigare qualcosa. Ecco, in questo senso veramente è una cosa da niente, però Red Acta, che è nata, ha interagito con questo posto, ha fatto qui le sue ricerche, ha esposto i risultati di queste, ha fatto le feste, è uno dei modi in cui i soggetti possono cercare di far fronte alla situazione. In questo senso, come ho detto a Mattia, poi ne approfittiamo per metterci d'accordo su delle iniziative prossime che, non ripeto, non devono neanche essere di chissà quale portata, possono essere delle feste, perché trovarsi, comunicare, avere qualcuno che ha gli stessi tuoi cazzi con cui parlare è il primo passo, come è sempre stato nell'associazione operaia. Per prima cosa ci si becca, c'è qualcuno che gira, guarda, facciamo, proviamo, eccetera eccetera. Ecco, riguardo la questione del governo Meloni, aspetta un attimo, sì. Fammi dire una cosa su Red Acta. Allora, Red Acta nasce da questa associazione di freelance e così via. Il discorso, cioè, sul lavoro autonomo, no? Quando abbiamo incominciato a parlarne, che era ancora con Primo Moroni, insomma, quando abbiamo fatto Lumi, abbiamo incominciato a dire: proviamo a vedere, cioè sono nuove forme di lavoro, tra cui questo lavoro indipendente, eccetera. Cioè, dov'è che siamo andati a cercare le fonti sociologiche per capirne di più? Nella sociologia weimariana. Cioè, l'origine di ACTA sta nella sociologia weimariana. Quindi i primi a loro, che non erano anche marxisti, erano di origine cattolica quei sociologi, sono stati i primi che hanno detto: guardate che qui ci sono forme di lavoro e così via, eccetera, eccetera. Per dire la forza di questa sociologia, no? La capacità di anticipazione dei tempi, eccetera. Ecco, secondo me si tratta di iscrivere le politiche attuali, la forma di governo attuale, dentro il corso lungo della storia contemporanea italiana. Disegno di legge, decreto di legge sicurezza, sta dentro quella legislazione d'emergenza ed eccezione che in Italia è iniziata nel 74, che è durata da allora senza soluzioni di continuità, semmai trovando sempre nuovi oggetti su cui applicarsi. La politica bellicista e riarmo sta dentro un trend complessivo generale che ha visto compartecipi un po' tutti i soggetti del sistema politico italiano. A bombardare Belgrado ci è andato non un fascista, no? Minniti per prevenire il rischio del fascismo, raccomandava la politica del manganello con gli immigrati. La legislazione sull'immigrazione comincia con la Turco-Napolitana e poi va avanti con la Bossi. Cioè, sostanzialmente l'impatto che il movimento degli anni 70 si è trovato di fronte, che ai tempi era di unità nazionale all'insegna della Repubblica blindata, ha poi trovato delle sue articolazioni a seconda anche delle necessità di affermazioni di questo o quel gruppo, di questa o quella corale. Però sostanzialmente è un fatto unitario che potrà essere rimesso in gioco solo da un qualche cosa di grosso, che magari passerà anche e probabilmente attraverso un processo molecolare di aggregazione, ma che a un certo punto dovrà rimettere in ballo tutti i termini del discorso politico consentito in Italia dalla sconfitta dei movimenti. Questo io penso che sia un approccio possibile alla questione dei fasci di merda al governo, perché ci sono e non è che siano lì a spolverare i mobili, stanno cercando di portare avanti dei pezzi forti di un progetto di consolidamento e restaurazione autoritaria che anch'esso affonda le sue radici in quegli anni. Quello che manca completamente è un'idea di un possibile contrasto a questo corso, perché nel frattempo tutte le case del vecchio movimento operaio sono state tirate giù da chi le occupava. Il sindacato è stato tirato giù, ricordavi la valutazione del decennio caldo come sostanzialmente negativa, ma lo stesso vale per tutto, cioè, comunque in Italia il PC si è sciolto, da altre parti non si è sciolto, ha mantenuto addirittura lo stesso nome, lo stesso giornale, non che mi piaccia quell'altra versione franco-tedesca, ma il livello di pentimento, perché poi di fatto se porti a termine il disegno, arrivi a questo, al pentimento. Questa è stata la grossa questione che ha chiuso la stagione delle lotte in Italia, non solo da parte di chi aveva qualcosa eventualmente di cui pentirsi, ma anche di chi non aveva niente di cui pentirsi, se non una vaga appartenenza al corso di liberazione dei lavoratori, che peraltro aveva già abbandonato da tempo. Ma è una cosa, per questo tutte le faccende relative agli anni di Pongo continuano a essere così ostinatamente riprese, ogni dettaglio viene sviscerato, la commissione d'indagine, l'inchiesta, la riapertura del procedimento, e invece le grandi stragi, ecco, giustamente tu inverti i termini tradizionali del discorso, le grandi stragi dei servizi segreti con la complicità dei neofascisti, che è un po' il contrario di quello che viene, invece questa è una definizione molto, molto più precisa. Ecco. Perché? Perché anche questo sta dentro questo corso lungo di contenimento e contro insurrezione, anche se l'insurrezione era più pensata che fatta, però è dentro un quadro generale che ha visto, con tutte le differenze del caso, però problemi consibili un po' in tutto l'Occidente. Ecco, su una cosa non sono molto d'accordo e poi chiudo, riguardo la periodizzazione della presenza dei fascisti nel sistema politico italiano. È vero che lo sdoganamento è avvenuto con Forza Italia e la Lega, ma in precedenza l'area neofascista non era meramente fuori dal sistema. A un certo punto è stata messa da parte, ma ha avuto un ruolo molto molto grosso, ad esempio proprio nel lungo ripetuto golpe italiano, dove tra l'altro non esisteva una minimamente apprezzabile differenza tra MSI e formazioni armate extraparlamentari. Era un gioco di fuori e dentro, tant'è che Rauti prima è capo di Ordine Nuovo, poi diventerà addirittura segretario dell'MSI. Ma è tutto il mondo che dentro un quadro quale era quello della teoria della guerra rivoluzionaria o controrivoluzionaria serviva a realizzare un consolidamento autoritario del sistema politico che è stato in certi momenti molto prossimo a realizzarsi. Poi le cose sarebbero state troppo complicate, troppo conflittuali, e a un certo punto è stato abbandonato e è venuto fuori il colpo di genio che nessuno davvero ci aveva pensato, e secondo me a sinistra, all'estrema sinistra, nessuno ci credeva davvero, che le cose potevano stare in piedi solo coinvolgendo il sindacato e il Partito Comunista, né in questa stabilizzazione contro. Questo è stato veramente questo è stato il colpo di genio del ceto politico di quegli anni. Tirar dentro quello che era stato il nemico esterno da cui difendersi, invece in questa maniera è stato poi col sistema della cassa integrazione, tutto quello che dopo sono stati trovati i metodi di gestione tecnico-sociale, ma l'idea politica forte è stata quella del PC e sindacato, partito e sindacato di Stato. Questo, ecco, in questo senso quindi articolare un po' diversamente la questione dell'integrazione o meno dei fascisti nella vita politica italiana. Basta. No, magari una cosa che voglio aggiungere, quando io parlavo della pessima qualità dell'imprenditoria italiana, cioè, non è che ripetevo, come dire, una cantilena marxista, no? Mi riferivo molto a tutta una serie ormai di pubblicazioni che sono diventate fatte proprio da parte dell'alta finanza. Cioè sono uomini dell'alta finanza che hanno scritto le pagine migliori sulla crisi dell'imprenditoria italiana e fanno risalire questa pessima qualità dell'imprenditoria italiana alle privatizzazioni. Quindi la storia nasce con le grandi privatizzazioni del 92. E c'è questo bellissimo, secondo me, un ottimo libro, tra l'altro ieri è morto uno dei due autori, Onado, sugli anni proprio delle grandi privatizzazioni, dove loro dicono, insomma, allora, noi stessi che a quel tempo eravamo in posizioni anche importanti nella Consob e così eccetera, e nella alta finanza, nelle grandi società finanziarie, eccetera. Abbiamo per primi creduto che la grande privatizzazione avrebbe rilanciato l'economia, no? E la sorpresa è stata che il grande capitale italiano non ha minimamente, non ci ha seguiti, cioè non ha investito, no? Per cui i principali investitori poi sono venuti gli stranieri, no? E quindi tutta una parte del patrimonio industriale italiano che è stato, come dire, messo in vendita nel 92, no? La famosa storia dello yacht Britannia, no? Quando Andreatta e Draghi sono andati a mostrare qual era la mercanzia che potevano vendere, no? I banchieri di tutto il mondo. Il processo delle grandi privatizzazioni che ha fatto sì che in Italia oggi abbiamo pochissime industrie, come dire, solide, come dire, di grande forza, insomma, capaci di fare innovazione tecnologica, e sono quasi tutte industrie legate al militare, da Fincantieri a Leonardo, eccetera. Ecco, io come fonti, non sono fonti marxiste, capisci? Fonti sono loro. Loro che le hanno vissute dall'interno, che ci hanno creduto e che hanno visto come è andata a finire. E quindi è estremamente interessante queste pubblicazioni. Anche tra l'altro le cose che io cito, le critiche più dure, diciamo, ai comportamenti dei governi ultimi, le fa un uomo di Banca d'Italia, è stato l'ex ufficio studi della Banca d'Italia. Leggi quello che lui scrive del governo Draghi, dice il governo Draghi è stato un disastro, era un suo collega il governo Draghi. Quindi io mi fido sempre molto di più, diciamo, dei, chiamiamoli, capitalisti pentiti, è una stupida, non è un modo giusto, ma cioè di coloro che, essendo proprio dentro quei meccanismi, quindi conoscendoli molto meglio di noi, si sono accorti, insomma, che, vuol dire, sono venute fuori dei disastri che questo paese pagherà non so quando, insomma, alla fine. Quindi questo è un punto che mi interessava sottolineare, perché sennò diceva, vabbè, insomma, il vecchio marxista che dice sempre che i capitalisti sono... No, no, non sono io che lo dico, insomma. Mattia. Vabbè, no, non volevo parlare di Redacta. No, volevo aggiungere una cosa, perché quando Sergio ha detto dai distretti è venuta la Lega, io ho pensato a casa mia, che è un ex distretto, che la Lega non vincerà mai, nel senso che è un distretto emiliano in cui per 25 anni è stato sindaco il comandante partigiano principale della città fino al 70, poi da lì in poi sempre il PC, il PD. E vincerà sempre il PD, credo. Però anche lì, cioè, pur essendo rimasto il PD e non perderà mai, credo, c'è un totale scollamento tra lavoro e politica, in un modo anche assurdo. C'è questo episodio di un anno fa in cui praticamente durante lo sciopero per il contratto del commercio, credo, chiaramente nella mia città a Carpi c'è la COP, che è molto importante, come immaginerete. Dentro la COP, la Filcams, cioè CGL, stava cercando di fare uno sciopero. C'erano queste due signore che stavano volantinando alla COP per questo sciopero. Sono arrivate le guardie private, pagate dalla COP, che hanno sequestrato i volantini e le hanno disperse. Cioè, questo, se pensate, cioè, il ruolo che ha avuto la CGL, la COP e il PC in Emilia-Romagna, in quelle zone lì, cioè, è una cosa incredibile, cioè, sembra... Non c'è stata nessuna reazione politica. Cioè la Filcams ha fatto il comunicato, è uno scandalo, così, ma è un tema che non ha sfiorato neanche le pagine della cronaca locale. Questo chiaramente è solo un esempio piccolo, però rende l'idea di come anche dove non c'è stata la Lega, però nei distretti si è completamente slegato, io credo anche per una questione proprio, cioè, antropologica, cioè che comunque il PC... in quei posti lì ha fatto di tutto per trasformare le persone in imprenditori, cioè ha favorito in maniera proprio concreta, dando i laboratori, chiudendo l'occhio su molte cose. Quindi l'evasione fiscale è quella proprio fondamentale. Quindi vabbè, non è solo la Lega, però volevo aggiungere questa cosa qua che mi è venuta in mente. No, però scusa Mattia, qualcosa però potresti dire sul fatto che, cioè, no, come dire, cioè, la storia dei librai, cioè, che c'è uno strato che va al di là del lavoro autonomo, no? Cioè che rappresenta, come dire, il lavoro intellettuale, eccetera, che ha una disponibilità oggi al conflitto, mi sembra abbastanza, cioè, che poi va ai precari della scuola, che poi metti dentro quelli gli archivisti, metti dentro gli archeologi, cioè, c'è un fronte molto fermentato, ma insomma c'è o no? Sì, sì, sì, beh, basta guardare anche appunto lo sciopero di Stato Università, insomma, pochi mesi fa è partecipato. Noi come Redacta, partendo da appunto freelance del mondo dei libri, negli ultimi 6 mesi siamo entrati in contatto con realtà di altri ambiti, altri settori anche molto diverse, come per esempio i librai della Feltrinelli. Il motivo per cui abbiamo cominciato questa redazione è stato lo sciopero, che forse ricordate, di marzo. E quindi noi, nel nostro modo un po' naif anche, cioè abbiamo detto, c'è lo sciopero dei librai Feltrinelli, noi come lavoratori autonomi partecipiamo allo sciopero, anche se c'è un livello teorico, è una cosa che ha poco senso, perché lo sciopero di un lavoratore autonomo è una cosa, insomma, non c'è bisogno che spieghi forse la cosa. Però sono lavoratori che hanno veramente poco in comune con noi, perché cioè, se guardi gli inquadramenti contrattuali, cioè noi non abbiamo nessun contratto collettivo nazionale, quindi banalmente non abbiamo un minimo sotto al quale si può venire pagati, e questo crea dei problemi ovvi, credo, per chi ascolta. E loro invece hanno il contratto collettivo nazionale e stavano scioperando per il contratto integrativo, cioè addirittura proprio il lusso, cioè, chiaramente si scherza. Però, nel senso, partecipare a quello sciopero lì è stato un momento interessante, un po' quella cosa che diceva Robertino, cioè che nel senso, ci sono le lotte, le rivendicazioni, le inchieste, così, però sembrano molto importanti, sembrano più importanti anche questi momenti più conviviali, di compresenza, di stare insieme nei luoghi, parlare, scambiarsi le cose anche lontano dai microfoni, lontano da tutto. E quindi questa cosa qui, questa prima, diciamo, anche perché, cioè, chiariamoci, cioè, le persone che magari lavorano coi libri da freelance, o che lavorano in biblioteca, o che lavorano nelle librerie, spesso sono le stesse, cioè le reti di relazioni sono quelle, sono persone che magari fanno questi lavori un po' una parte, un po' dall'altra, magari vengono licenziate, non vengono rinnovate, finiscono, cioè, quindi uno la guarda da un punto di vista di inquadramenti contrattuali, sembrano cose completamente diverse, però in realtà noi stiamo trovando insomma, tante cose in comune. Abbiamo allargato questa rete qua anche ai bibliotecari, che Biblioteca di Milano, che vabbè, insomma, è uno dei pochi comuni che assume, continua a assumere i bibliotecari, però cioè, ci sono delle contraddizioni nel settore bibliotecario enormi, cioè a partire da, non so, i maxi progetti che forse conoscete, questa BEIC, questa super biblioteca costosissima che stanno producendo, e d'altra parte ci sono biblioteche che stanno aperte magari in certi orari solo con lavoratori di cooperative pagati da fondazioni, alcune biblioteche che oggi ancora non hanno aria condizionata, le due che coprono quasi 300.000 persone a Milano, che sono Crescenzago e Zara, sono senza aria condizionata, quindi un servizio. Quindi si, per dire, anche nel mondo delle biblioteche c'è un bisogno di conflitto, ci sono persone che, ma al di là del bisogno, ci sono proprio persone che stanno attivando concretamente. E quindi anche lì abbiamo creato questa occasione in cui siamo incontrati, e questa cosa qua sta andando avanti, e il primo, diciamo, esperimento di manifestazione comune è stata l'adesione allo sciopero per Gaza, che è stato uno spezzone di questa manifestazione partecipatissimo, cioè non ci aspettavamo neanche, che è andato molto bene. Chiaramente, sì, se li guardi da lontano, sono lavoratori autonomi, lavoratori del privato e lavoratori del pubblico, cioè che cazzo c'entra a livello sindacale, cosa si può fare insieme? In realtà, cioè, stiamo sperimentando un po' questa cosa qui. Sugli esiti non possiamo garantire nulla, però diciamo che per il momento sta avendo una cosa bella. La parola al compagno Spazzali. Allora il compagno Cacamo. È scappato? Cacamo! Vieni che è il tuo momento. Ah, tu non sei Calusca che dialoga con noi? Ah, sono Calusca che dialoga, sì. No, voglio dire, io ho dato anche una scorsa a una recensione che tu avevi attaccato sul blog del libro di Sergio. Allora, aggiungiamo che rispetto al problema di non aver paura della Meloni, che tu hai appena detto, non aver paura nel senso è tra virgolette, così come quella critica che viene fatta al fascismo di quando c'era lui, no? Che l'hanno sempre cercato di dipingere come qualcosa di arretrato, come qualcosa antimoderno, no? Ma noi sappiamo che in realtà è stato veramente invece l'inizio di quello che poi diventerà addirittura il boom economico. Allora, con questo vediamo di capirci. Non c'è nessun plauso al figlio del fabbro, no? Però fa sì che tutti questi meccanismi tornino alla cosiddetta questione che è la qualifica di antifascista, no? Antifascista in questo paese erano tutti, no? Salvo, sono diventati anche quelli che fascisti erano perché amnistiati o riemessi nei posti di lavoro, no? E questo meccanismo ha fatto sì che, a differenza dei tedeschi, c'è un passaggio dentro questo meccanismo, in questo paese non ci fosse, non si creò neanche un problema della colpa, no? Cioè venne cercata col fenomeno resistenziale di stendere un velo, una bella coperta, affinché ci si presentasse al mondo che, avendo fatto questa, noi non avevamo problemi di fare i conti col passato, in poche parole. Ma questo è un po' il passato, però credo che valga la pena ricordarlo ogni tanto. Questo perché per non finire come i 20 anni di anti-Berlusconi, alla fine ci hanno dato la Meloni, no? Non ci hanno dato qualche cosa di diverso. Però per tornare all'oggi, la questione cosiddetta di questi ceti medi è importantissima da andare a verificare, perché avremo bisogno di informazioni profonde, perché una parola che è detta così non dice nulla, no? Cioè la questione di poter identificare, forse possono essere quelle istituzioni del capitale che ce le fornisce, no? Per poter riuscire meglio a capire chi sono questi, cioè per capirsi oggi negli Stati Uniti vale ancora quella, che io qui me la sono segnata, quella inchiesta degli anni 50, che andava a cercare di capire quelli che, riferito a una questione della personalità autoritaria, per andare a cercare di capire attraverso un campione quelli che non erano ebrei, erano bianchi, erano nati lì e quindi erano il ceto medio americano. Leggendo queste quattro righe, siamo negli anni 50, facciamo anche un salto ad oggi di Mr. Trump, no? Quanto c'è anche qui di collegamento. Però nel frattempo, e poi finisco, c'è un passaggio dove, se noi andiamo a riprendere qui, e credo ancora di più in un paese come gli Stati Uniti, questi ceti medi come sempre più dovranno scontrarsi, perché il problema non sarà ceto medio nel senso di coloro che stanno nel mezzo, ma capire chi sta dentro e chi sta fuori, e di conseguenza pensare a come schierarsi. Rispetto a quando capisco che questo mio un po' diceva, non abbiate troppa paura della Meloni, possa far incazzare, però anche scritto, signori, guardate che questi non è che vengono fuori dal niente, non è che vengono fuori soltanto dal MIS, questi vengono fuori da uno che si chiama Ligresti, il signore che si chiama Ligresti dietro c'aveva una cosa che si chiamava Mediobanca. Allora non è che sono, cioè non è soltanto il vecchio estremismo, abbiamo una forza del capitale italiano, della finanza italiana di prima grandezza. Mi ricordo, io ho citato cosa ha scritto il Sole 24 Ore quando è morto Ligresti, no? E gli hanno detto, il Sole 24 Ore dice, sto signore, specialista nel creare queste scatole cinesi, eccetera, ha potuto fare tutto questo perché dietro c'aveva Mediobanca che gli era consentito di farlo. E Mediobanca, vi ricordo, è nota come il salotto buono del capitalismo italiano. Quindi, diciamo, so benissimo lo spessore di questa roba. L'altra cosa è la questione della memoria, che secondo me è fondamentale. Tu l'hai già citato quando ho detto, guardate che noi ci siamo autoassolti, perché la Repubblica di Salò è stata corresponsabile totalmente della Shoah. Cioè, quando questi rastrellavano gli ebrei, non erano mica solo i nazisti o la Wehrmacht, erano fior di signori della Repubblica di Salò e così via, no? E questi qua di oggi che si richiamano alla Repubblica di Salò, cioè loro sono nati come Fratelli d'Italia come protesta contro Fini che voleva cancellare la fiamma tricolore. Dice no, no, noi vogliamo la fiamma tricolore perché i nostri antenati sono quelli lì. E però oggi si abbracciano con la Liliana Segre, no? Cioè, voglio dire, quindi bisogna vedere, diciamo, da quello che è l'uso del passato, della memoria, da quella che è la pratica. E devo dire, riconosco a loro una capacità di usare la memoria maggiore della nostra. Io come triestino non metterò mai di incazzarmi sulla questione delle foibe, ma è possibile, in una situazione della guerra mondiale dove sono stati 40 milioni di morti, fare questo casino attorno a un episodio che avrà portato 2000 persone? E quindi su Officina Primo Maggio noi abbiamo scritto, guardate che sarebbe ora, oltre alle giornate del ricordo della Shoah, eccetera, a fare una bella, come dire, usare 10 giugno 1940, quando l'Italia è entrata in guerra, perché quella roba lì, come dire, ci ha creato, no, quanti milioni di persone sono morte e quanti italiani sono morti lì dentro. E allora, se vogliamo mettere sul certo piatto della bilancia, no, i crimini commessi appunto da Mussolini, che ha aggredito i francesi che non gli avevano mai fatto niente, ha aggredito i tunisini che non ci avevano mai fatto niente, gli jugoslavi, albanesi, greci, poi i russi, cioè nessuno di questi ci aveva rompito le balle. Li abbiamo aggrediti perché? Per dare manforte al più grande criminale della storia. Una roba che, se tutti si pensi oggi, è pazzesco, capito? Cosa siamo riusciti a fare noi italiani? E quindi insistere su questa cosa qua e poi insistere sulla tematica anni 70. A me mi puzza un po' questo fatto che escano continuamente libri sugli anni 70. Perché se li guardate, gli ultimi usciti da quello Luzzatto sulle Brigate Rosse, Gotor, quello su Potere Operaio, quello sui GAP, anche De Aglio, eccetera, eccetera. Se guardate, stanno dando una versione degli anni 70 completamente diversa. Sempre anni di piombo, però ti dicono, guardate che dentro ci stavano i servizi segreti italiani. E te lo dice qualcuno che 10 anni fa scriveva tranquillo che Feltrinelli era il capo del terrorismo rosso e nero. E oggi scrive, ah no, ho scoperto negli archivi dei servizi segreti inglesi che c'erano loro che scrivevano. Quindi c'è anche questa nuova fase della deformazione degli anni 70, no? Dove si parla ovviamente solo di quello, di Piazza della Loggia, sì, di Piazza Fontana, sì, di Piazza... E poi su tutte le cose del cosiddetto terrorismo rosso sappiamo tutto dall'A alla Z dei vari pentiti. Su quella cosa lì non sappiamo un tubo. Cioè noi, quelli che hanno ideato Piazza Fontana, che hanno ideato la strage di Bologna, non sappiamo nulla. Quindi questa battaglia sulla memoria io considero una battaglia veramente fondamentale, insomma. Va bene, possiamo, se non ci sono altri interventi, chiudere. Chi vuole fermarsi a mangiare qualcosa, c'è una buona pasta fredda, altrimenti ci vediamo alla prossima. Grazie della partecipazione. Il libro viene battuto all'asta sul tavolo in fondo.